Lui era F ed è il primo ospite che abbiamo portato questa sera a questa edizione zero di Bridge, che sono davvero orgoglioso, felice e anche emozionato di aver potuto curare, di essere qui stasera con voi a presentare. Orgoglioso perché penso che il programma che abbiamo messo a punto insieme a Giacomo in questo mese e mezzo di lavoro sia un programma ambizioso, spero interessante, utile e divertente per tutti e tutte coloro che parteciperanno a queste serate. Sono felice perché ero già stato invitato qui da voi 5 anni fa e mi ero trovato veramente molto bene, e tornare a Senigallia è una cosa che davvero mi rende contento, mi fa stare bene, e quindi siamo qui appunto a inaugurare questa serata. Io sono esperto da ormai un bel po' di anni, e è stato il primo nome che mi è venuto in mente di invitare a una cosa di questo genere, anche perché quest'anno ha curato la traduzione e l'edizione di Scansatevi dalla luce di John Williams, scusatemi, che è un libro molto interessante e che è appunto un po' anche il cuore della lezione, del workshop che farà ecco, ci tengo a sottolineare che così lo stimolo che Giacomo mi ha dato prima di iniziare a lavorare è stato quello di creare un programma che non fosse soltanto un programma teorico, dove non si parlasse soltanto di concetti, non si facessero soltanto ragionamenti, ma che fosse qualcosa per cui le persone che partecipano a questi incontri possano portarsi via qualcosa, delle pratiche, dei consigli, degli strumenti da poter usare nella vita di tutti i giorni. Cioè, usciti da questa porta, l'auspicio che ci siamo fatti e quello che volevamo portare a tutti quanti era proprio qualcosa che si può fare immediatamente, che si può toccare con le mani e che si può mettere subito alla prova. Ed è un po' quello che io ho trovato nel libro. E vado velocemente alla conclusione per far iniziare F, ma credo che sia importante sottolinearlo. È un libro con cui io comunque ho fatto un po' a pugni, cioè, sono d'accordo in parte, ci sono molti passaggi con cui sono critico, che mi hanno fatto storcere il naso, ma un enorme pregio. Dopo che l'ho letto, ho cominciato a guardare il mio rapporto con lo smartphone, i social network, eccetera, in un modo diverso. Cioè, qualcosa che mi aveva, di questo libro che mi ha fatto fare un click, e ho cominciato a dire: ok, sto perdendo tempo, mi rendo perfettamente conto che sto facendo una cosa che mi fa perdere tempo, e piano piano alcune cose le ho eliminate. Ecco, io spero che questa sera F ci porti in un percorso che ci aiuti a eliminare le cose che non sono importanti, che ci distraggono, che ci rubano l'attenzione, per poterci riprendere questa facoltà così importante. Grazie a tutti e a tutti di essere venuti qui così numerosi, e niente, buona serata e buon ascolto. Grazie Flavio, innanzitutto complimenti perché avete un posto bellissimo e sono davvero contento di avere questa opportunità di essere qui. Ho voluto cominciare con questo piccolo colpo di teatro, vi confesso che è un piccolo esperimento che sto portando avanti, cioè provare a dare qualcosa che vada molto al di là dell'elaborazione teorica sul tema dell'attenzione. Io non ho alcuna zero esperienza di teatro. Questa idea mi sembrava una rappresentazione visiva forse un po' utile, ed è una rappresentazione visiva che nasce in realtà da alcune delle cose contenute nel libro. Il libro in realtà è solo una scusa, stasera il discorso è abbastanza più ampio, io spero, rispetto ai contenuti del libro. Non nascondo che naturalmente c'è questo circolo virtuoso tra me e l'autore, e il motivo per cui ho scelto di tradurlo era un tema che mi era già caro, ma che faticavo a identificare e a organizzare proprio come tema di studio, nel leggere quel libro invece ho trovato le coordinate davvero molto utili, per cui poi l'ho tradotto e da lì sono partito per una serie di altre riflessioni che sto portando avanti. Io insegno, il mio lavoro è insegnare dei ragazzi all'università e quindi insegnare in realtà non è altro che uno studio per continuare a studiare. Il tema dell'attenzione è un tema che in realtà sta da tanto tempo preoccupando una serie di esperti di discipline più diverse. È tradizionalmente un tema della psicologia. L'attenzione è una facoltà cognitiva, uno dei padri fondatori della psicologia era un americano che per questo momento si chiama all'opposto di James Williams, cioè si chiamava William James, alla fine dell'Ottocento scriveva l'attenzione è quella cosa che era un po' provocatoria. Partiamo dalla lingua. In italiano si dice fare attenzione. Io qui uso un imperativo. Fate attenzione. Ci si fa caso poco, ma l'attenzione è una cosa che si fa. Non è una cosa che accade o che abbiamo, è una cosa che ha bisogno di uno sforzo. In un certo senso può essere compresa come un'attività. In inglese, e questa è stata una bella sfida nel libro, si dice letteralmente pagare attenzione, pay attention to, pagare attenzione a qualcosa. Ed è bello perché rende l'idea del fatto che quando tu, noi diciamo tornasse indietro, quando tu presti attenzione a qualcosa, in realtà stai pagando un prezzo. L'autore dice paghi il prezzo del perdere tutte le altre tutte quelle vite che avresti potuto vivere se avessi dedicato la tua attenzione. Il tema è, ripeto, più grande del divino. Va al di là di quello che è un po', no, il tema caldo del momento, cioè le tecnologie digitali. Quindi io ho fatto una serie di schermate, mi auguro sono solo schermate di articoli presi da PubMed, che è un deposito, diciamo, di articoli scientifici online, forse più famoso, su gli effetti della, non dell'attenzione, del suo opposto, della distrazione sulla guida, che è una cosa con la quale più o meno siamo. Siamo tutti familiarità, qualche volta ci è capitato a noi, tamponare quello davanti, oppure qualcun altro distratto ci ha tamponato. Sono purtroppo esperienze relativamente frequenti su cui, ben sapete, poi le compagnie di assicurazioni costruiscono tutti i loro algoritmi per ristabilire i premi assicurativi. I titoli al volo, attenzione visiva nella guida, gli effetti del carico cognitivo e della distrazione visiva. Guardate l'ultimo, questo è del 2007, l'ultimo è del 2016, se non ricordo male, è uno studio di campo sugli effetti dei billboards, sono quei pannelloni pubblicitari, ma non di carta, digitali, quelli che lampeggiano, quelli fatti a schermo, sui comportamenti dello sguardo durante la guida sull'autostrada. Guardate quanto è dettagliato questo studio. Vi riporto. Le compagnie assicurative su queste cose le finanziano addirittura, perché in base a questi dati, a questi giornalisti, loro poi stabiliscono i loro premi. C'è oggi addirittura la preoccupazione che nelle generazioni più giovani, secondo alcuni di questi studi, soprattutto negli Stati Uniti, perché lì li fanno, lì hanno i soldi per farli, quella che si chiama la visione periferica. Quello che noi guardiamo ma non stiamo guardando, quello che colpisce la nostra retina mentre stiamo guardando qualcos'altro, no? Tu cammini, guardi diritto, qualcosa succede a destra, perché la tua visione periferica lo percepisce, sia più ridotta nei neopatentati, per cui essi siano più soggetti al rischio di non percepire eventuali pericoli durante la guida, il che per esempio vi spiega. Mi pare che certe aziendali di macchine fino a una certa età non si possono guidare, o i neopatentati comunque anche in Italia hanno una serie di restrizioni rispetto a chi ha più anni di esperienza di guida. Quindi il tema dell'attenzione è un tema che va ben al di là dell'effetto che questi giocattolini che tutti portiamo in tasca hanno su di noi. Allora, cominciamo dalla domanda più centrale: che cos'è l'attenzione? Io qui sintetizzo, e lo faccio con le parole di James Williams e ripescando la vita teatrale con cui abbiamo cominciato, quella che è, diciamo, attualmente il consenso prevalente in ambito di studi psicologici e neuropsicologici e neurocognitivi. La tendenza attualmente è di considerare l'attenzione, che è sempre stata in realtà pensata come solo una facoltà della mente umana, come punibile, quasi la stessa cosa, ma non del tutto la stessa cosa, rispetto alla nostra coscienza. James divide l'attenzione, vedete, in tre parti, che era un po' quello che provo a fare prima con la torcia. Il riflettore, lo chiama, cioè la capacità letteralmente di avere questa lucina qui sul centro della fronte, perciò l'ho pensata così, e di puntarla sull'azione, sul compito che stiamo svolgendo in quel particolare momento. Leggere un libro, guidare, scrivere un'email, prendere un caffè, qualsiasi cosa. È quel tipo di attenzione, quello stadio dell'attenzione che ci rende capaci di fare ciò che vogliamo o dobbiamo fare. Quando io ho acceso la luce, volevo provare a descrivere quella che Robert James chiama la luce delle stelle, che è questa bella metafora marinara, no? I marinai in passato si orientavano nel mare, un luogo che per eccellenza è privo di punti di riferimento, con le stelle. È quella capacità di orientarci in maniera più ampia, più con una visione più allargata, no? Rispetto a quelli che sono i nostri obiettivi. Cosa voglio fare da grande? Voglio diventare medico? Ok, allora mi devo iscrivere all'università, devo fare 6 anni di università, ho preso in più questi esami, eccetera, eccetera. È quel tipo di facoltà che ci fa essere chi vogliamo, chi cerchiamo di essere. Lo stadio ancora superiore è quello che James chiama il sole. Cioè sono le nostre capacità fondamentali di essere di esseri umani. La riflessione, la metacognizione. La metacognizione è molto semplice, la capacità che abbiamo di riflettere su noi stessi. Cioè, pensate un po' a quando usciamo fuori da noi stessi, no? E ci guardiamo dall'esterno, no? Quando ci facciamo autoanalisi, quando diciamo perché mi sono comportato così, quali sono le radici del mio comportamento, perché mi arrabbio, perché non mi arrabbio. La ragione, l'intelligenza, che sono gli strumenti fondamentali che A ci caratterizzano come esseri umani e ci distinguono dal resto degli animali, e B sono quelli che ci consentono non di perseguire, ma di definire i nostri obiettivi e i nostri valori. È quello che ci fa decidere di essere un o una brava persona, d'accordo? È quella, la profondità della nostra natura attentiva. Ed è per questo che oggi in letteratura si tende a pensare a questo tipo di attenzione come quasi completamente giustapponibile, cioè collimante con la coscienza. Ho usato una parola 2 secondi fa, parlando di obiettivi e parlando di valori. Vorrei farvi notare come valore sia una nozione che è comune in realtà a più discipline. All'economia, quando si stabilisce il valore di qualcosa che poi si traduce in prezzo di qualcosa, è ovviamente un concetto della politica, i valori di un partito, i valori di un movimento. Forse il concetto cardine dell'etica. Quindi questa nozione che è a cavallo di questi ambiti. Per me personalmente economia e politica sono direi quasi lo stesso ambito, perché non esiste un'economia che non sia politica. L'economia è per l'appunto la scelta di allocare risorse in un modo piuttosto che in un altro, e di conseguenza quella scelta è sempre una scelta valoriale, politica. Definiamo, proviamo allora a concentrarci un secondo sulla questione del valore. In etica si definisce valore la preferenza su ciò che è appropriato o desiderato. Decidiamo che un tale comportamento è giusto, è buono, oppure non è giusto, non è buono. In economia la questione diventa un po' più complessa. Perché si definisce come la misura del beneficio che viene arrecato da un bene o da un servizio. In questo momento io pagare un prezzo molto alto al di là della salute danneggia per una cosa del genere. Però la domanda rimane: come determini il valore di qualcosa? Le risposte nella storia del pensiero sono state tante. La risposta più frequente al giorno d'oggi è che il luogo dove si determina il valore economico di un oggetto, di un bene, letteralmente il luogo dove si incontrano la domanda e luogo fisico dei paesi ed è anche un luogo metaforico. In realtà la faccenda è forse un po' più complessa di questo. Perché quello che succede oggi in termini di attenzione è che l'attenzione viene normalmente considerata un bene. Però bene, vedete, purtroppo a volte il linguaggio è parte stessa del problema che intenderebbe risolvere. Che cos'è un bene, mi verrebbe da chiedere? Un bene è qualcosa che si compra, che si può alienare, che si può vendere, su cui può essere determinato un prezzo. Già nel 1971, quello che poi diventerà premio Nobel per l'economia, Herbert Simon, scriveva: in un mondo ricco di informazione, l'abbondanza di essa implica la carenza di qualcos'altro, cioè la scarsità di qualsiasi cosa essa consuma. Ciò che l'informazione consuma è piuttosto ovvio: consuma l'attenzione dei suoi destinatari. Dunque, un'abbondanza di informazione produce una povertà di attenzione e il bisogno di allocare quell'attenzione in maniera efficiente tra l'eccesso di fonti di informazione. Vedete il linguaggio economicista e accademico, ovviamente, di Herbert Simon. Fu lui il primo a porre questa equazione, a costruire questa equazione inversa tra quantità di informazione e la nostra attenzione. Ed era il 1971, c'era internet, c'era in America la TV, che era molto più sviluppata ovviamente di quanto non lo fosse in Italia, c'erano i giornali, la radio, c'era quell'ecosistema mediatico a cui qualcuno di noi ancora si ricorda, non c'era l'accesso al sapere a distanza di un clic, naturalmente. Però era nella testa di Simon, il problema era già piuttosto presente. Quindi questo sarebbe un po', se lo volessimo rappresentare graficamente, lo vedremo così come una X, dove al crescere dell'informazione, la quantità di informazione disponibile, decresce il livello di attenzione che possiamo prestare ad essa. Però questa equazione in realtà non la racconta tutta, non la dice tutta. Perché? Perché quello che in realtà nasconde è che nel modo in cui noi definiamo valore la nostra attenzione, si nasconde la quantità di lavoro che è alla base del suo commercio. Faccio un esempio per essere più pratico. Come vive attualmente la televisione? Sulla pubblicità. La televisione privata, il canale, vive sulla pubblicità. Che cosa? Io sono uno che vuole mandare fare uno spot, mandarlo in TV alle 8 di sera, in prime time, realizzo il video di 30 secondi, vado al Sarai, dico ok, voglio comprare uno spazio, di quello si chiama spazio a quest'ora, datemi 30 secondi. Nel linguaggio sembrerebbe che io stia comprando uno spazio, o meglio ancora un tempo, ma in realtà l'emittente che cosa sta vendendo? Sta vendendo la distribuzione dello spot, sta vendendo la tecnologia relativamente banale che serve per mandarlo in onda, l'infrastruttura, le reti che già esistono da tempo, le antenne. No, quello che l'emittente sta vendendo a chi vuole mandare in onda un messaggio pubblicitario è la nostra attenzione, cioè qualcosa che letteralmente non gli appartiene. L'emittente dice: io sono in grado, per degli strumenti di misurazione, di dirti che orientativamente, in maniera relativamente precisa, mai perfetta, relativamente precisa, in quella fascia oraria, questo tot di persone che ha queste caratteristiche demografiche, tot uomini, tot donne, di tale età, di tale fascia, cioè di tale ceto sociale, di tale provenienza, che vive in questo paese, in questa città, guarderà questo spot. Io ti sto vendendo il loro sguardo, in realtà ti sto vendendo la loro attenzione. Quindi sto vendendo qualcosa che non è mio, è quello che viene nascosto, cioè il rapporto che c'è tra valore e lavoro. Ovviamente questa non è una novità, però è importante ribadire questo, l'attenzione. Cominciamo a smettere di pensare che l'attenzione sia quella che qualcosa che può essere allineato e che abbia un valore di uso, no, perché come dicevo prima è una caratteristica che ci rende umani in quanto tali. Quindi un po' come l'acqua, sono fatte tante battaglie, suppongo che meglio di me, l'acqua come bene comune, perché l'acqua è qualcosa che è fondamentale alla vita, non c'è vita senza attenzione, e questa è l'equazione che dobbiamo cominciare a metterci in testa. Ovviamente, ripeto, non sono io che mi sono inventato questa cosa, simpatico il vecchio signore, forse sarebbe il caso di ritornare a leggere, e vi posso garantire che nei cosiddetti think tank, nelle università, nei centri di ricerca più vicini alle logiche di economia capitalista, questo signore da un po' di anni a questa parte viene letto quasi un paradosso. La domanda allora marxiana vera e propria è questa: in che modo l'esercizio dell'attenzione, il nostro esercizio dell'attenzione, quando noi facciamo attenzione, si trasforma in un processo lavorativo, per una forma di lavoro? Il lavoro in teoria dovrebbe essere retribuito, e dunque in un processo di valorizzazione. Torniamo un secondo sulla parola valore. Chi determina il valore di qualcosa? Come si determina il valore di qualcosa? Da dove, che tipo di equazione c'è alla base di questo? La domanda nasce per il semplice fatto che l'esercizio della nostra attenzione genera un profitto. Non è un profitto che viene nelle nostre tasche, è un profitto che va nelle tasche di qualcuno. Questo è un meccanismo noto. Ha letto Marx, a 150 anni all'incirca, dalla pubblicazione dei Grundrisse del 1859, quindi circa un secolo. Allora, nel momento in cui uno realizza, un attimo, stanno prendendo qualcosa che non solo è mio, come succedeva con gli operai nell'800, nel 900, come succede tutt'oggi, la mia forza lavoro, stanno prendendo quello che mi definisce umano in quanto tale. Forse è un filo più grave semplice modo di dire, sfruttamento della forza. Chi lo sta facendo? Lo sta facendo, come l'esempio che ho raccontato prima, questa gigantesca industria che si chiama pubblicità o advertising. Ripeto, il linguaggio è sempre parte del problema, ormai è un mondo invaso completamente termini inglesi. Io no, adesso non vi annoio ulteriormente di appropriazione indebita, faccio capire solamente la dimensione del fenomeno. Questi sono i dati di spesa solo ed esclusivamente della pubblicità su canali digitali, quindi esclusi giornali, radio e televisione. Proiezioni di spesa fino al 2023. Parliamo di miliardi di dollari. Quindi nel 2019 sono stati spesi solo ed esclusivamente per il digitale 333.025 miliardi di dollari. Nel libro di James, che è scritto nel 2018, quindi aveva i dati più aggiornati, erano nel 2017, era esattamente 100 in meno, 223 miliardi di dollari. Nel 2017, che è più in mano, io ho aggiornato come al 2019 siamo cresciuti di 100 miliardi di dollari. La curva viola che vedete è quella, è la crescita in percentuale complessiva di tutta la spesa per la pubblicità, però vedete che la distanza, no, qui tra spesa complessiva e parte della spesa dedicata al digitale è proiettata a salire. Qualche dato, Google e Facebook attualmente, e questo attualmente ripeto, un dato del 2018, costituiscono l'85% della crescita annua della pubblicità su internet. Due aziende, Google e Facebook. I problemi che queste aziende generano sono tanti altri, sono ben tanti altri, no? Infatti, per esempio, ormai Facebook è l'unica fonte di informazione. Tutto ciò che abbiamo sentito fino alla noia negli ultimi anni, le fake news, la post-verità, eccetera, eccetera, tutto quello è molto vero, è strettamente collegato a questo discorso, è un po' più complesso come va analizzato con altri strumenti, però è un dato di fatto che il mare, melma in cui tutto ciò si chiaro che qua stiamo parlando della movimentazione di cifre di denaro da capo di giro su cui gli interessi coinvolti in questo ovviamente mollano la presa di prometto che sto per finire la parte analitica, dopo arriviamo anche alla parte un po' più pratica, se così si può dire. Faccio una confessione. Questa è una mia elaborazione, però sono la quale sto lavorando, in realtà mi è fregato l'idea e lui chiede se ha scritto un libro su queste cose, lui l'ha chiamata la in inglese the grammar of influence, a me tradurre influence in influenza mi sembrava brutto, così l'ho tradotto con condizionamento. Guardate un po' i termini generali di tutto ciò che è pubblicità, condizionamento sulla rete, persuasione, manipolazione, lavaggio del cervello, inganno, tendenza, è un termine molto diffuso, no? Ingegneria sociale, già quella lista sono a vederla fra mille brividi. Guardiamola in particolare negli ambiti della tecnologia, del commercio, gamification, l'integrazione, lo smartphone, la smart tech. Ormai non ci sono neanche più termini come smart city. Bravo, bravo. Non ci sono nemmeno più termini complessi, ci sono semplicemente questi acronimi, marketing, MKTG, advertising, pubblicità, branding o self-branding, questa terribile moda. Quello che a me incuriosisce di più è sempre hashtag. Hashtag è questo, è la storia dell'hashtag è bellissima, bellissima, interessantissima, cioè questo segno grafico che è un indicatore di ricerca. Una roba che serviva per dire a un computer cercami questo e che no del è qualcosa che ha letteralmente colonizzato tutti gli ambiti della comunicazione, no? Dal magliette, cioè c'è questa colonizzazione del linguaggio da parte di termini che sono per loro natura abbastanza violenti, ma violenti nella misura in cui nascondono la verità dei rapporti sociali. Guardate, io ho scelto fatto, non molti altri ambiti che James poi analizza, io ho scelto un altro solo diverso da questo, che è quello della salute, insomma un ambito piuttosto importante, no? Per noi esseri umani. I termini sono, non si parla più di cura, sarebbe anche una bella parola, no? Si parla di parla, ci sono scuole già da tempo purtroppo di PNL, programmazione neurolinguistica. Roba da carissima, tu programmi il linguaggio di una persona, cioè programmi il modo in cui questa persona percepisce e racconta la realtà nella maniera che più gli aggrada e che è del tutto separata dalla verità della realtà. La mindfulness, una cosa su cui tanto si scrive, tanto si dice, sapete cos'è? È questa pratica dell'essere presenti a se stessi. In realtà ha degli effetti terapeutici, c'è una molteplicità di studi che lo testimonia, anche abbastanza concreto, cioè, in casi particolari di patologie di ansia, che genera un malessere mentale reale, alcuni di questi esercizi svincolati completamente dalla loro radice religiosa hanno un effetto positivo, riescono a far stare meglio le persone, però riescono a farle stare meglio realtà, non facendo i conti con la realtà. È una via di fuga. Io sono, non sono io per criticare le vie di fuga, però la mindfulness ha la pretesa di dirsi reale, sincera, in realtà non lo è. Training, la mente e la buona vita fosse il risultato di una persona. È sempre questa logica competitiva. Questo è un po' il contesto del linguaggio in cui la pubblicità lavora e lavora sulla nostra con il compagno Len, ci chiediamo che fare. Allora io vi porto tre suggestioni e qualche esercizio pratico. Nulla di trascendentale, però è un primo passo. Un esercizio l'ho fatto io e lo racconto al volo e poi magari vi lascio la parola. Venendo qua a piedi con Flavio dal centro di meno un chilometro, temevamo di essere in ritardo. Avuto un passo piuttosto sostenuto. Io ho contato tre telecamere di sicurezza. Provate a farlo come provate a contare le telecamere di sicurezza. È un tema vecchio in realtà per noi contadinisti, no? Questo grande fratello che ci guarda, che noi spesso volentieri non è regolamentato, ci sono le telecamere che più o meno hanno un senso, quelle fuori a edifici istituzionali, altre che non hanno un senso, altre che sono oggettivamente letteralmente di penetrazione nella vita sociale, nel tessuto sociale. Provate a farlo, poi diventerete pazzi come me, spero che mi auguro di no, però io ormai non c'è posto in cui vado, in cui io non osservo dove sono le telecamere. Non perché io sia malintenzionato, non perché voglio rubare nulla, ma perché vorrei fare un cazzo di me, senza essere visto, senza che qualcuno, senza che ci sia una registrazione di me, no? Da qualche parte. Ora, io magari mi fermo. Secondo, riprendo il fiato prima di passare alla parte un po' più pratica. Io sono stato confuso, ho lasciato qualcosa, ho domande, interventi, curiosità. Aspettano tutti la parte pratica con ansia, vero? Questa è la verità. Perché sì, hai fatto un'introduzione. Secondo me molto rapida, era anche molto densa di contenuti e E sicuramente è molto interessante il modo in cui hai preso il lavoro di Williams e l'hai condensato per fare questa introduzione, perché quello che è emerso e che si vede chiaramente è proprio il fatto che l'attenzione sia al centro di una rete di interessi, di rapporti di potere, di catture, di accumulazione, di valorizzazione, diciamo, di tutti quegli strumenti che appunto, se torniamo a Marx, visto che l'abbiamo citato, vanno a costituire l'essenza del funzionamento del capitalismo come dispositivo, come macchina. E quindi quando oggi noi guardiamo tutti questi meccanismi, tutti questi ingranaggi e pensiamo che stanno lavorando su una facoltà fondamentale tra tutte quelle che ci rendono esseri umani, capiamo quanto si è estesa, quanto è grande l'estensione del dominio, della cattura che il sistema economico all'interno del quale viviamo ha imposto e continua a imporci. Ricordiamoci sempre che il capitalismo è una forma economica ed è una forma storica, ha avuto un inizio. Spera avrà una fine, spera che riusciremo a vederne la fine prima di schiattare tutti quanti e tutte quante. Però ecco, ne approfitto anche per dire che nel discorso che hai fatto sei andato a toccare una serie di temi che saranno i temi di questi 3 giorni, di questo festival, perché l'attenzione tutto sommato sta alla base di tutti quanti, no? Quando hai parlato, non ho sottolineato a caso il fatto che si parli di smart city, perché due degli interventi che avremo in questi giorni, quello di domani con Federico Neirocchi, come ordinare la tua città su Amazon, e quello di sabato che chiuderà con Valentina Bazzarini, come progettare con i dati il diritto digitale alla città, hanno la città come sfondo delle nostre vite, delle nostre azioni, come teatro delle nostre rivendicazioni, il loro argomento principale, e il fatto che anche nel momento in cui noi siamo all'interno della città, la nostra attenzione è contesa, è un punto critico di cui dobbiamo tornare ad accorgerci, perché il punto è proprio questo: come facciamo a inserire quei glitch, quelle frizioni, quegli attriti che ci permettono di renderci conto di tutti questi meccanismi che sono costruiti e progettati per essere assolutamente invisibili, diciamo, per scattare con una precisione, da orologio, da meccanismo, proprio per scivolare via, per sfuggire alla nostra capacità di attenzione. Sono mimetici, sono stealth, per usare un termine inglese. Purtroppo credo sia difficilmente traducibile, mimetici, ecco, mi verrebbe da dirlo. Allo stesso tempo il fatto che ci sia un rapporto inversamente proporzionale tra la quantità di informazione e la nostra capacità di prestare attenzione sarà il tema del workshop che invece porteranno Andrea Cozza e Lorenzo Ciccarelli sabato pomeriggio. Ecco, diventa sempre più chiaro, e diventa più chiaro anche a me, quanto sia importante iniziare un percorso di questo genere parlando di attenzione, perché questa fondamentalmente è la capacità, la caratteristica di noi esseri umani che più è messa in pericolo oggi in questo momento. No, tu dici bene, ma io cerco sempre di essere il più analitico possibile. Poi, in camera caritatis, quello che penso è che è una lotta per la sopravvivenza. Non è molto diverso da questo, non è diverso nei contenuti dalla lotta per la sopravvivenza che c'è un minatore inglese. È veramente la possibilità per loro di respirare dell'aria, per noi di riuscire a respirare dell'aria, per letteralmente l'ossigeno, per un cervello che viene manipolato. Io non l'ho fatto perché non era, perché è fatto nel libro. Il libro spiega con grande attenzione e cura e dettaglio tutti quei meccanismi mimetici di cattura alcuni sono davvero terribili. Faccio la sintesi con la battuta che faceva James in varie occasioni. Io stasera offrirò degli spunti di riflessione, io non ho soluzioni, non mi pongo neanche lontanamente di dire che posso offrire una soluzione. Io offro uno spunto di riflessione al massimo. E questo per il semplice fatto che questa è una battaglia in cui l'altra parte ha delle armate intere di professionisti che si dedicano 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, a cercare di capire come meglio distrarmi, come meglio catturare la mia attenzione. Per cui la battaglia di uno è veramente un Davide e Golia senza forse il finale di Davide. Dove Golia le suona, basta, Davide le prende, non voglio sembrare pessimista. Però la cosa brillante che dicevi, e che spero sia appunto il portato di questa sera, è che forse è ora di cominciare a parlare di questo, cioè di cominciare ad avere una conversazione pubblica in cui si prende consapevolezza che il tema dell'attenzione è un tema letteralmente di vitale importanza. Allora, procediamo. Io leggerò tre citazioni e da tre cose completamente diverse e ad esse ho associato degli esercizi pratici. La prima è dall'autobiografia di Alice Toklas di Stein, proprio nelle pagine iniziali lei scrive: "Mi piace il panorama, ma mi piace stare seduta voltandogli le spalle." È una metafora, il panorama che cos'è? L'abbondanza di informazioni che sono a nostra disposizione, l'abbondanza di stimoli che questi giocattoli e altre fonti ci propinano letteralmente minuto dopo minuto, è lì, è a nostra disposizione, è a distanza di un clic. Però io volto le spalle, sono lì e non lo guardo. Allora, l'immagine del panorama mi ha suggerito questo esercizio. Provate a guardare fuori da una finestra per 10 minuti. Osservate nel dettaglio tutte le cose che ci sono in quel riquadro, che altro non è che uno schermo, ma sulla vita, sulla realtà, e magari una finestra di quelle che c'è in casa vostra, che vedete tutte le tante mattine e che credete di conoscere a memoria. Osservate tutti i movimenti che avvengono, provate a spingere lo sguardo su quel dettaglio che è stampato sulla vostra retina, ma che non avete mai veramente osservato. E una volta che fate questo, provate a descrivere. Ci sono tanti esercizi del genere che si fanno in tanti ambiti diversi. Provate a descrivere esattamente il colore dell'edificio, il tono del cielo quella mattina, quante persone sono passate nella strada, se sono maschi, se sono femmine, se sono bambini, se sono anziani, se corrono, se vanno in bicicletta, tutti i dettagli che si presentano davanti alla vista. E poi fermatevi a ragionare sul fatto che quella realtà esiste ed è completamente fuori dal vostro controllo. Non potete fare nulla, non potete intervenire, non potete. È lì, no? Ed è c'è una sorta di rispetto reciproco, però adesso fa parte di voi perché l'avete osservato attentamente. Ci sono decine e decine di esercizi del genere, molti si fanno, per esempio, chi si occupa di educazione all'arte fa fare esercizi del genere. Io, quando spiego, mi diverto con i miei studenti, quando spiego il totalitarismo, passiamo mezz'ora a guardare e a parlare del quadro di Picasso, il famoso quadro di Picasso Guernica. Una volta ho spiegato la storia del fascismo all'EUR, questi sono ragazzi, non si sono niente, zero, non sappiamo dire Mussolini, tabula rasa. Il regime totalitario, inizio del Novecento, nasce in Italia da parte di un signore chiamato Benito Mussolini, che eravamo all'Eur, spero lo conosciate, quartiere di Roma, no? E questi hanno capito perfettamente le caratteristiche di un regime totalitario guardando gli edifici. Filtro tra privato e istituzione, tra individuo e istituzione. Si guardava da fuori a dentro, ma anche da dentro a fuori, no? L'imponenza, il richiamo alla cultura greca, alla cultura romana, eccetera. Ci sono tanti esercizi. Provate, quello della finestra è forse il più semplice. Provate, se volete. Seconda cosa, questa è la mia preferita, mi alzo perché io ho scoperto di recente, questa filosofa di inizio Novecento, francese, troppo prematuramente scomparsa, Simone Weil, per molti una mistica. Camus, prima di andare a ritirare il Nobel, si racconta, passò per quella che era la sua casa di Parigi e si fermò a meditare nella stanza di Simone Weil. Infatti vedete che questa citazione è tratta da lei era ovviamente era ebrea, però era interessato al tema della religione in maniera molto letteralmente teologica, non confessionale. E scrive questo saggio che in realtà parla quasi esclusivamente del concetto di attenzione, dice che l'attenzione è una cosa più vicina alla forma di preghiera. Si intitola Riflessione sul buon uso degli scolastici in vista dell'amore di Dio, cioè questa eco a Santa Teresa d'Avila, e dice, scusate se mi ci soffermo un attimo perché è davvero molto bello, l'attenzione è uno sforzo. Forse il più grande degli sforzi, ma è uno sforzo negativo. L'attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto, nel mantenere in se stessi, in prossimità del pensiero, ma a un livello inferiore e senza che vi sia contatto, le diverse conoscenze acquisite che si è costretti a utilizzare. Qui parla delle nostre conoscenze tecniche per fare un quadro, il saper dipingere, il saper costruire una sedia, il saper far di conto, il saper scrivere. E soprattutto il pensiero deve essere vuoto, in attesa, non deve cercare alcunché, ma essere pronto ad accogliere nella sua nuda verità l'oggetto che sta per penetrare. Qua vedete davvero lo spirito della mistica, della donna, proprio mistica, donna, no? Sostantivo. Cioè che si lascia andare a, la metafora è davvero pregnante, alla penetrazione della realtà, da parte della realtà. Sono, no, è un po' c'è molta eco religiosa in questo, del sacrificio. Però la cosa interessante è questa, lei a differenza di tutti gli altri, tutti quelli che si occupano di attenzione, dice sempre l'attenzione è una cosa che puoi allenare, l'attenzione è un muscolo, no? È uno sforzo. È vero, non è che sia falso, si impara ad essere attenti, è una cosa che si può imparare. Però lei dice: no, non c'è nulla di performativo, più ti sforzi, più stai perdendo tempo, devi abbandonare, devi lasciare andare, devi essere colpito dalla realtà in maniera libera, in maniera aperta, in maniera vuota. È un po' in realtà. Il parallelo laico è quello dell'antropologia, no? Dell'antropologo che va nel posto lontano, dimenticato da Dio, viene proprio a caso l'espressione, in un popolo, in una cultura radicalmente diversi dalla propria, e quindi è costretto a lasciarsi colpire per poter fare bene il suo lavoro. Dalle dinamiche, dai linguaggi, dai modi, dai gesti della comunità presso la quale si trova. Questa è una cosa io, l'antropologia viene tra insegnato in questo modo, no? Capire le culture nei termini, nei loro termini, non nei termini. L'esercizio che suggerisco, più o meno legato a questo, è di una banalità sconvolgente. Parlate con uno sconosciuto. Al centro commerciale, alla fermata dell'autobus, per strada, se vedete che qualcuno, la prima cosa che mi è venuta in mente, ha bisogno di qualche indicazione, più che meno interessate ci sono il turismo, no? Per cui io abito a Firenze, siamo invasi dai turisti. C'è quella bellissima battuta che dice: non so perché la chiamano stagione turistica. Touch. Perché ovviamente sono ormai una città come Firenze, sono quasi un virus infestante, però in questo mondo di virus che girano, ci sono anche persone che sicuramente avrebbero la pena conoscere. Datevi questa opportunità, provate a buttare un'ama senza essere maleducati, senza essere invadenti, no? Lanciate un amo, magari verrà lasciato o magari la volta dopo no. E questo perché, questo è un vecchio trucco degli intervistatori e, no, anche degli antropologi, dei giornalisti. Le persone vogliono, noi vogliamo, noi tutti vogliamo parlare. Io sono penso che sono stanco morto, mi sto divertendo tantissimo perché io ho 20-30 persone che mi stanno ascoltando e non c'è niente di più bello. Questa è una cosa che diceva Simone Weil, lei diceva l'attenzione è la forma più rara e però non è in quella parola, in una lettera che lei manda ed è vero, cioè è un grande atto di generosità il prestare ascolto, altro non significa che prestare attenzione a tutto. Vedrete che la volta che succede è un fiume in piena, cioè fatelo quando avete tempo da perdere, perché poi davvero non vi mollano più. L'ultima la mia preferita quella è una, in inglese la frase è ambigua perché condizionale che però a sua volta introduce una condizione per cui viene tradotto normalmente con il lei di no, in realtà non è una traduzione corretta, non è grammaticalmente corretta. I would prefer not, ci hanno fatto un sacco di fish, lo ci hanno scritto addirittura un intero filone di autori che ha lavorato su questo piccolo, questa è una piccola opera di Melville, che il libro è lo stampato, sono 30 pagine, trovate sul web, ci hanno scritto caterve di tesi di laurea, tesi di dottorato, libri, tutti a fare carriera accademica. Tra cui uno peraltro quello che poi nella bibliografia successiva inserisco di Deleuze e Agamben. Preferirei di no è davvero una dichiarazione di intenti politici. Pensatela, io la penso in questo modo, magari qualcuno è d'accordo con me. Perché non è una forma di opposizione frontale. Perché quando sei in posizione frontale, voi lo sapete bene, devi avere la forza di fare. Sai che stai per entrare in un conflitto e devi reggere il conflitto, lo devi portare avanti. Il preferirei di no, in realtà, toglie la ragione di essere al conflitto stesso. Perché nella sua stessa formulazione esclude il conflitto. Io dico io non voglio. Non è un no, non è un di no, ed è un chiudersi in una stasi, chiudersi in una stasi che però è paradossalmente molto attiva. E qui arriviamo un po' ai giorni nostri. No, l'esercizio che io vi consiglio in maniera molto moderata è osservate una settimana di silenzio digitale. Silenzio digitale non significa niente, ognuno decide che cosa è per. Potete perfettamente io tutto male, cioè vi è permesso in realtà non è come si pare, ma controllare i social media, i network, social network, vedere le conversazioni, la mail, eccetera, no? Però senza partecipare, con una provate a cominciare a mettere una distanza tra voi e la vostra attività. Può essere una distanza breve all'inizio. Vabbè, allora io controllo Facebook solo 2 ore al giorno, poi 1 ora al giorno, poi solo 3 volte ma per 5 minuti. Lo decidete voi, datevi una regola. Per questo il consiglio, per questo io ho fatto così dal preferirei di no, non partite subito, no? In quarta, con una cosa frontale. Però datevi le vostre regole per mettere una distanza tra voi e le tecnologie digitali. E poi osservate come cambiate. Osservate le vostre sensazioni, ascoltatevi, provate a vedere. E come si sta, io l'ho fatto tutte le volte questa pratica, infatti Fabio lo sa, noi siamo amici da più di 10 anni, ma io in rete quasi non ci sono più, quindi mi trovo, c'è il numero di telefono, non peraltro, mi ha chiesto mandami una biografia perché ti conosco, ma sul web non c'è più niente di te, quando il tempo era ben diverso da queste cose, no? C'è, questa è una cosa che sto studiando adesso, la metto qua, con una chiarificazione. Queste sono di 3 app. La prima c'ha un bel nome, Libertà, Freedom. Interessante però, si chiama Freedom, Moment, questa si chiama Forest. Questa è interessante perché ha un sistema di incentivi. Sono 3 app che servono per farvi staccare l'utilizzo dei social network sul telefono e delle email. Ovviamente hanno un'impostazione molto complessa, in cui potete decidere chiudimi Facebook da quest'ora a quest'ora oppure bloccami la connessione wifi da quest'ora a quest'ora. Sono tutte cose che potete settare come vi pare. Fanno parte di quel movimento gigantesco che da un po' di anni a questa parte passa, viene conosciuto con il nome di Digital Detox, no? Alla quale io non credo che James definì in maniera assolutamente squisita, con un numero fantastico, è un po' come mettere un cerotto su un'emorragia interna. Lascia un po' il tempo che trova, però è un modo per cominciare. Non è detto, per qualcuno può funzionare, per qualcuno non può funzionare. Io ve l'ho messo qua come semplici consigli, e per questo mi interessava, perché appunto se ogni volta riuscite a ottenere l'obiettivo che vi ponete, avete un albero che cresce un po', no? Se invece poi vi connettete quando non dovevate, l'albero muore, vi dice questa Tamagotchi. Però appunto questa, perlomeno c'è un pensiero in termini di incentivi all'azione o alla mancanza di azione. Io credo di aver finito. Ah no, ecco l'ultima, questa piacerà a te. È un imperativo, ma io ci sono arrivato tardi, ci sono arrivato ben dopo aver tradotto il libro. Il libro è stato tradotto editore fiorentino, quindi anche il verbo scansate, che era un po' quasi in vernacolo fiorentino, il titolo originale è Stand Out of Our Lives. È chiaro che il libro, citando la famosa scena di Diogene, si rivolge a coloro i quali bloccano la luce della nostra attenzione e chiede loro di scansarsi, d'accordo? Però in italiano, e questo io davvero me ne vergogno, ma l'ho capito molto dopo, scansarsi è anche un verbo riflessivo, per cui forse la strategia per cominciare a liberare la nostra attenzione è duplice ed è parimenti valida. Sì, chiediamo a costoro di chiediamo a costoro di non colonizzare la luce della nostra attenzione, di non occupare la luce della nostra attenzione, ma allo stesso tempo anche noi scansiamoci da soli. Facciamo una scelta che è, senza alcuna vergogna di dirlo, una scelta etica di preservazione della nostra attenzione, cioè della nostra facoltà più umana. Io qui ho pensato, ho messo questo screenshot, mi diverto a fare gli screenshot e usarli per la lezione. Questa è Black Sails, in cui questo è un pirata del 600, il capitano pirata del 600, questa è senza mai citare la parola Mattia, scrive definiti dalle loro storie distorti per essere racchiusi nelle loro narrazioni, ma c'è libertà nell'oscurità. Fuga, però mi sembrava carino, visto che tu sei un fanatico del cinema e lui è un sinologo, è uno dei più sciocchi più di me. C'è la bibliografia, qui, poi magari ve le lascio anche le slide. Io vi ringrazio dell'attenzione, nel caso di dire. Naturalmente, se ci sono domande, curiosità o qualsiasi spunto per chiacchierare, siamo qui, ma penso che rimarremo ancora, se è possibile, avere un altro paio di birre dopo. E quindi ci trovate anche senza l'ostacolo del microfono? No, certo, davanti. Chiaro, se poi adesso ci fossero più che domande, anche condivisioni di esperienze, suggerimenti, io ascolto sempre. Io, per esempio, dopo aver letto il libro di Gentile, ci ho messo un pochino, però, per esempio, sono uscito dal gruppo WhatsApp del Fantacalcio e ho guadagnato un sacco di tempo, no? La verità. Oh, mi sono reso non mi manca per niente, mi sono reso conto di quanto tempo mi macinava un semplice gruppo WhatsApp. Se potessi toglierli tutti, probabilmente. Tu li hai silenziati, ma silenziarli comunque poi. Io ho un grossissimo problema. Come posso dire? Ho un'ansia sono un po' un maniaco dell'ordine, tipo Marie Kondo. Se c'è qualcosa fuori posto, non lo so, cioè magari solo mia mamma parli dice sempre parli delle notifiche. Bravissimo, volevo arrivare lì. Mia mamma dice sempre che io ho un ordine disordinato, cioè un mio ordine, che poi se voi lo vedete sembra un gran casino, però è il mio ordine. Io ho l'ansia delle notifiche, io devo cancellarle tutte appena le vedo. Infatti ringrazio, devo ringraziare i nemici che sono gli user interface designer di WhatsApp per avermi messo il tasto segna come già letto quando scrolli la tendina, no? Ti dà un grandissimo sollievo quando vedi tipo 50 notifiche, lasci il telefono in modalità aereo, fai un volo, poi atterri e ti si accumulano queste 120 notifiche, segna come già letto, a posto. Non ho la necessità di scrollare tutto, di perdere del tempo in quelle che di solito sono un sacco di scemenze, ecco. Studi che hanno io no, un iPhone, che ha un iPhone, forse anche su Android. Avete mai fatto caso che il numero delle notifiche perse è in rosso? È banale psicologia del colore, perché il rosso attira la nostra attenzione. È stato studiato, non è di per caso. Non c'è nulla, nulla in questi schermi da 5-6 pollici che si è lasciato. Sì, questo secondo me è la cosa fondamentale, e tutte le volte che io mi sono trovato a parlare di questo tipo di strumenti, di tecnologie, di dispositivi o a fare formazione su questi aspetti qui, è una cosa che sottolineo sempre. Come diceva Effe, non c'è niente di casuale nel modo in cui i pulsanti all'interno di un'app sono disposti nello spazio, sono cose studiate sulla base dell'estrazione, dell'accumulo, dell'analisi di enormi quantità di dati, ed è quello che dicevo prima, non sono tutte queste immagini, perché sono immagini di fatto, sono incredibilmente trasparenti, non c'è mai nessuna frizione, non c'è mai niente che ci faccia sentire questo intervento, il fatto che siano costruite, il fatto che siano state appunto progettate e realizzate da esseri umani, no? Se io mi siedo su una sedia come questa, probabilmente sento delle imperfezioni che mi fanno dire, mi fanno capire che qualcuno magari non ha passato la raspa nel modo giusto, con abbastanza con abbastanza, non ci ha passato abbastanza tempo, ma mi fanno capire che qualcuno le ha costruite, che c'è del lavoro, che c'è dell'ingegno. Quelle invece sono interfacce completamente trasparenti. Ma visto che parliamo di immagini, permettimi di fare soltanto una parentesi. L'esercizio, il primo che hai fatto, l'esercizio della finestra, mi ha colpito perché risuona molto con l'interpretazione che Giacomo Giovannetti ha dato di questo workshop nel suo artwork che è appeso fuori sul muro, no? Perché di fatto ha aperto una finestra su un mondo fantastico, pieno di cose che ci perdiamo perché stiamo guardando un'altra finestra che è quella dello schermo. Ecco, è proprio lì l'esercizio dell'attenzione, guardare attraverso uno schermo e vedere tutto quello che sfugge a quello che è stato progettato e che è stato programmato. Almeno io leggo così il senso dell'esercizio. Quante sono le eccedenze all'interno di uno schermo che mi possono colpire, su cui non ho il controllo? Invece, quando parliamo di questo tipo di tecnologie, è tutto controllato, è tutto incredibilmente controllante, cioè quel controllo si rovescia e diventa controllo dei nostri comportamenti perché siamo spinti a fare determinate azioni che sono state progettate e predeterminate prima di noi. Penso da buon americano che una delle critiche, delle varie recensioni non fa il libro, non fa un attacco frontale al sistema capitalista, anzi dice subito: no, io non ho nulla in contrario contro il sistema. Ed è l'autore, uno che ha lavorato 10 anni in Google, che chiaramente significa che da una parte non ti poni un certo tipo di problema etico, dall'altra però conosci la interno, diciamo, pro e contro. Lui ha questa posizione, quindi non fa un attacco frontale, però dice: noi, poiché è una persona che ha una coscienza, dobbiamo decidere qual è il livello di manipolazione accettabile come business model. Perché parlando di pubblicità è questo, cioè fin dove consentiamo a questa gente di fare manipolazione della nostra mente ai fini. E questa è una cosa che dobbiamo decidere noi individualmente e poi collettivamente. Questa è una posizione media, diciamo, no? Adesso vedevo Sorrentino l'altra sera, la via mediana, no? Visibile o meno come tutte le posizioni, però il problema è. Una riflessione molto veloce. Diciamo che io dal mio punto di vista non ho paura della tecnologia, nel senso che non mi fa paura neanche il fatto che le icone o le icone luminose siano rosse, siano gialle, che catturino la mia attenzione. Perché ad ogni modo mi è piaciuta la slide che hai fatto vedere in cui mi davi tre livelli di attenzione. L'attenzione, diciamo a breve termine, cioè quello che ci impedisce, cioè quella luce che abbiamo sulla frontale, la luce frontale che ci impedisce di fare determinate azioni. E a mio avviso Ci consente, non ci impedisce, ci ci consente. consente di fare determinate azioni, così come le stelle e il sole. Cioè, se noi focalizziamo l'utilizzo della tecnologia o comunque degli smartphone sempre sulla luce frontale, è chiaro che condiziona, cioè, tende a condizionare anche le stelle e il sole. Cioè, dal punto di vista dell'individuo, dobbiamo molto probabilmente focalizzare quelle che sono le nostre stelle e quello che è il nostro sole, per evitare che la tecnologia si appropri del nostro essere, della nostra vita. Allo stesso tempo, quando parlavate delle telecamere che condizionano o comunque o si osservano, anche in questo caso la tecnologia a mio avviso deve essere vista in maniera neutra, perché io con le telecamere sono in grado di monitorare il traffico urbano e posso mettere in moto degli algoritmi che consentono ai mezzi pubblici di arrivare in orario, di dare un servizio. Io voglio starmene per conto mio, io prendo, vado con la mia bicicletta, me ne vado in montagna e lì sicuramente le telecamere non ce le trovo. Così come se voglio stare da solo e voglio vivere la mia interiorità, spengo il cellulare, perché questa è un'azione che io posso tranquillamente fare, e me ne faccio, mi faccio una passeggiata al mare. Io regolarmente mi faccio la mia passeggiatina dalle 7 alle 7 e mezzo al mare, spengo il cellulare, chiunque mi cerca non ci sono. Però questa è una scelta, noi dobbiamo lavorare in una scelta dell'utilizzo della tecnologia. Poi il fatto che ci facciano soldi, questo fa parte dell'essere, o comunque della nostra, della società. Anche noi lavorando cerchiamo di guadagnarci il pane. Il problema forse nasce dal fatto che ci sono solo due aziende che fanno soldi sull'utilizzo della tecnologia e hanno un potere enorme sul condizionare l'azione sociale, se vogliamo, o condizionare le scelte sociali. È giusto una riflessione veloce, non vuole essere esaustiva. No, no, grazie. Io sono molto contento di quello che dici, perché mi dà l'occasione di fare un paio di chiarificazioni. Buon per te. Io vedo, ho ascoltato una persona con una grande consapevolezza di sé, mi sono profondamente contento, mi sono assolutamente contento, però lo dico con una provocazione, non saremmo qui a parlare se non ci fossero masse di persone che non hanno la consapevolezza di fare se stesso, cioè non saremmo qui a parlare se non ci fossero masse di persone che sono letteralmente vittime di una serie di tecnologie senza nemmeno sapere di essere vittime di queste tecnologie, di essere semplicemente, c'è quella bella scena, di Matrix, no? Di quando Neo si sveglia, non so se l'avete visto il film, ma è il migliore, si sveglia e si rende conto affacciando queste torri infinite, che sono state un mare trasparente all'interno dei quali nel liquido gli umani vengono utilizzati come pile, come batterie per le macchine, no? È una metafora molto bella. E c'è una grossa fetta della popolazione mondiale, almeno nel mondo occidentale, non solo, ahimè, che è così, che è energia, è semplice fonte di estrazione di energia, no? Ed è bene che chi come te ha questa consapevolezza cominci a dirlo. Però io non ho anche pensato così, adesso io ho più rispetto, poi prima anche io avevo questa posizione, permettimi, forse un po' elitaria, dicevo, no, cazzo, cioè, è una scelta di fare svegliati, voglio dire, cioè, si sa che sta roba ci conta il cervello e tu consenti loro di farlo, allora sei un cretino tu. Adesso forse non è una più elitaria, ricorda sì, sei un cretino, fammi aiutarlo, fammi vedere se posso provare a fargli capire qualcosa. E poi invece una cosa non sono d'accordo, non esiste una tecnologia neutrale. L'algoritmo che regola il traffico è un algoritmo all'interno del quale sono stati inseriti dal programmatore una serie di valori funzionali positivi. Positivi perché rendono armonica, più o meno provano a rendere armonica la circolazione. Altri algoritmi no, non c'è tecnologia priva di valori in senso etico, perché le scelte tecnologiche sono sempre scelte fatte da uomini, più spesso da compagnie, aziende, corporations, per cui spesso e volentieri, che è esattamente la ragione del 99% del design di questo oggetto, i valori di design di questo oggetto sono valori valore, di colonizzazione dell'attenzione, di colonizzazione dell'immaginario. Io lo ricordo su Facebook, ma io ero su Facebook da ben prima che arrivassero i grossi italiani, già nel 2005, quando ero universitario, no? Avevo un indirizzo di un'università americana perché lavoravo con loro e quindi potevo già iscrivermi nel 2005. Ed era una figata perché io vivevo in funzione di pubblicare la mia vita su Facebook. Giovane, avevo 25 anni, era diverso naturalmente il contesto, però pure ero un dottorando, insomma, proprio scena non ero, c'era, perché l'oggetto Facebook era stato disegnato in quel, e mi tra né menti ben più brillanti di me. No? Quindi, se è vero, e qui nessuno di noi però possiamo essere, come lo sei tu, questo è forse il passo che dobbiamo portare. E far sì che sempre più possano essere la consapevolezza. Sì, anche se io vedo i settantenni sui social network, sono veramente il peggio del peggio, però, cioè, forme di dipendenza dai social nella fascia di età che va dai 55 ai 75, io insegno a degli ritardo adolescenti, 18-20 anni, non sanno le cose, e non puoi avere consapevolezza se non sai le cose. Però hanno, come tutti i ragazzi di quella età, io conosco quella parte in particolare, però è vero, per i più giovani ancora il problema si pone, ed è un problema sociale, proprio di formazione, però hanno molta consapevolezza delle loro sensazioni. Quindi quando stanno male, quando qualcosa non va, per colpa dei loro cellulari, se ne accorgono e prendono delle misure. Possono essere più disparate, però se ne accorgono. I più giovani più ancora, no, infatti. No, certo, però è un... Certo, no, è perfettamente. L'accelerazionista è lui, Io faccio solo una battuta velocissima, poi c'è un altro intervento. Sì e no, su questo secondo me è incredibilmente rilevatore un fatto che si cita spesso e volentieri quando si affrontano queste discussioni. No, a parte quello, Bill Gates ha proibito l'uso di smartphone nei computer ai figli. Questo dovrebbe già dirci qualcosa, a proposito del fatto che se... sostanzialmente quello che ha inventato il computer domestico, la persona che di fatto più che l'ha inventato che l'ha commercializzato a livello di massa, che ce l'ha fatto entrare nelle case di tutti quanti, si sia posto il problema di dire: i miei figli queste tecnologie le avranno quando avranno l'età per capire come utilizzarle senza che questo sia dannoso per loro, perché è questo il ragionamento che fa Bill Gates probabilmente. Allora ci deve dire qualcosa, perché lui è un insider, sta dentro, ragiona su tutti questi aspetti e si pone il problema. Ora, sono perfettamente d'accordo quando diciamo che non dobbiamo essere contro a priori alla tecnologia, perché questo, come diceva F, è impossibile, noi non possiamo vivere senza la tecnologia. Una chiave di lettura secondo me molto interessante la dà Shoshana Zuboff in il capitalismo della sorveglianza, che è un libro che abbiamo anche nella selezione di testi che abbiamo portato e che ci sarà per tutta la durata di Bridge, 10% di sconto se li acquistate durante le serate. Qui lasciatemi il mio animo piazzista, io scusate ce l'ho. E quindi lo faccio sempre alle presentazioni, mi diverto sempre a farlo, esatto. No, ma tornando a Shoshana Zuboff, il suo approccio nelle prime 100 pagine del libro è questo: è dire il problema non è nelle tecnologie, il problema è nella logica economica che è stata sviluppata per fare soldi con questo tipo di tecnologie, per fare più che soldi. Sembra un po' banale, sembra il ritornello della canzone che ha vinto Sanremo l'anno scorso, più che altro per estrarre plusvalore attraverso queste tecnologie. È lì che è lo stacco. Zuboff è molto, molto chiara nel fartelo sentire nelle prime 100 pagine di quel libro. Il problema non è giustamente con la tecnologia possiamo fare delle cose molto utili. Valentina Bazzarin sabato parlerà proprio di questo, cioè come possiamo usare i dati, le tecnologie digitali, gli algoritmi per costruire una città che sia a nostra misura e non a misura di chi estrae più valore da noi e dalle nostre vite. Questo secondo me è il punto di domanda e un po' lo scarto concettuale che dobbiamo cominciare a fare e che cerchiamo di fare quando parliamo di questi argomenti in pubblico. Cioè il momento in cui a cui siamo arrivati ci impone questo, e sono certifico quando F dice: io sono stato un entusiasta delle tecnologie, ci siamo conosciuti perché eravamo due entusiasti delle tecnologie, perché vedevamo grandissime possibilità, e ancora io quantomeno ci vedo nelle tecnologie digitali una grande possibilità per fare delle cose, ma devo capire il problema arrivati oggi è capire a quali condizioni si possono riempire di contenuti senza che questi contenuti partecipino a una logica che sia estrattiva e che colonizzi la mia attenzione, il mio tempo e aspetti della mia vita che invece sono importanti. La battuta prima sul fatto che le due anche io la storia, non esistono gli accelerazionisti, devono morire bene. Tutti male. Nell'arco della storia umana occidentale, perlomeno, questi problemi sono un nanosecondo nello sviluppo della storia. Io ho sentito ieri 43 anni e non credo di essere particolarmente anziano. Io non sapevo però il computer, quindi nell'arco della vita di 43enne sono successe una marea di cose a proposito del tema della velocità della storia. Quindi ci mancano ancora molte informazioni, molti. La tecnologia evolve così rapidamente che facciamo fatica a capire gli effetti. Il tema della scuola, lo dico da mio papà e anche da insegnante, è centrale, perché per esempio esistono tutta una serie di ancora quantitativamente secondo me non rilevanti, però indicatori di un problema, e cioè che l'eccesso di uso di schermo, che è un po' quello che raccontava Flavio con la storia di Bill Gates, in realtà davvero disegna percorsi neurali diversi nelle teste dei bambini, bambini piccolissimi, cioè bambini che non sanno ancora leggere e scrivere, 2, 3, 4, 5 anni, i prescolari. Io lo mi sento davvero merda perché quando, prima di avere una figlia, andavo una sera in pizzeria e vedevo la coppia di neo genitori, insomma, un bambino di anche di 3, 4, 9 anni, forse un po' più grandi, pam, mi mettevo il telefono davanti, mettiamo l'iPad davanti, guardati il filmato, guardati il cartone, comprensibile che il genitore voglia stare un po' tranquillo, diciamo che ci sono anche altre soluzioni. Però li stanno creando, secondo questi studi, poi anche sempre un tema di consenso in letteratura da parte degli studiosi, stanno creando un danno morale, cioè stanno costruendo un percorso di apprendimento bidimensionale che esclude tutta una serie di complessità, no? Per cui tradano quei percorsi di apprendimento verso un tipo di conoscenza come dire, fatta di piccole entità, non c'è la visione dall'alto, non c'è la visione. Io lo vedo con i miei studenti, con modo in cui fanno a 18, 19, 20 anni le ricerche. È un collage, spesso e volentieri, di bits and pieces, di pezzetti presi in giro quando va benissimo da un libro. Il resto è Google. E non lo dico da pessimista, lo dico da uno che vorrebbe spiegare. Guardate, io Google faccio quello che ed è utilissimo, ma perché avevo imparato a prestare un'attenzione diversa prima. Non voglio suonare conservatore, non voglio suonare come quello che sta investendo male, perché mi rendo conto che c'è anche questo rischio. Il tema è costruire, per questo che mi pare di capire che tu lavori nella scuola, no? C'è questa follia ideologica di dare in mano gli schermi ai ragazzi. Ed è una follia ideologica, non perché lo schermo sia negativo in sé, ma perché misuriamo prima gli effetti, cerchiamo prima di capire che cosa succede a questi ragazzi prima di mettergli uno schermo in mano. Perché poi, io mia moglie, cioè, mia moglie anche lavora con le tecnologie digitali moltissimo, ce lo siamo posti il problema, abbiamo deciso che e ci rendiamo conto che in mano perché ci serve, ci lavoriamo, e tutte le volte in stai doppio dell'attenzione la vedi arrivare, sta telefono in tasca, però intanto ti rimane la mail aperta a metà, ti rimane la chiamata aperta a metà, no? Perché certo, ovviamente lei è curiosa, vuole, no, è un giocattolo che brilluccica. No, chiaro, però per esempio televisione zero, iPad zero, telefono in tasca, ovviamente. Sono temi. Però appunto, parlando di sviluppo delle cose, la cautela, proprio la cautela analitica minima, dobbiamo prima capire che effetto hanno, prima di partire con i suoi discorsi tra tecnologisti e logisti, no? Apocalittici integrati, misuriamo le cose, misuriamo gli effetti. Noi li abbiamo, noi tra l'altro ho raccontato di due, ma abbiamo potuto misurare di noi non tutta questa storia è cominciata quando eravamo già abbastanza grandi e formati da poterla perlomeno provare a capire. Quindi per un mero dato sì, oltre al fatto che appunto tu e io ci abbiamo lavorato per tanto tempo e ci lavoriamo ancora e quindi abbiamo veramente un rapporto stretto e con le tecnologie quotidiano e anche di grande analisi, di grande riflessione. Però sì, sono perfettamente d'accordo che il tema oggi fondamentale è quanto sta andando veloce questo sviluppo, quanta fatica facciamo a capire quali sono, a causa di questa velocità, le conseguenze di questo sviluppo. Sono neopapà anche io, il problema degli schermi me lo pongo anche io e sono perfettamente d'accordo che le linee guida OMS dicono che fino a 12 anni gli schermi vanno evitati o quantomeno vanno, l'utilizzo va limitato nel tempo, fino ai 2 anni non dovrebbero essere utilizzati mai, dopo i 2 anni si dice massimo mezz'ora al giorno e sempre sotto controllo dei genitori eccetera eccetera eccetera. Ecco, io su questo e per spiegare, di solito per spiegare quanto questa cosa sia importante, perché e proprio per far capire quanto siano questi strumenti facili da usare. Io racconto sempre un aneddoto che riguarda invece mia nonna, che trovo di solito funziona molto bene per spiegare una cosa del genere. Parte da un assunto della saggezza veneta che dice: a 2 anni se putei, a 80 anni sempre quei, cioè 2 anni sono bambini, a 80 sono uguali. Mia nonna ci ha messo circa 4 anni per imparare come si mandava un SMS col vecchio 3310, e dopo 4 anni comunque ancora sbagliava e ogni tanto si trovava, mi dava il telefono e mi diceva: mi è arrivato questo messaggio, me l'hai mandato tu, ed erano presente quei servizi a pagamento delle notizie che mandavi il codice e poi ti arrivavano le notizie. Diceva: ma hai premuto questi tasti? No, ha fatto tutto lui. Poi un giorno, una mattina, mi sveglio, vado al lavoro, accendo il computer, mi collego a Facebook e c'era la richiesta di amicizia di mia nonna, che non mi aveva mai chiesto come funzionava Facebook. Lì sono rimasto un attimo così, ho detto: aspetta un attimo, com'è possibile? È così facile che l'ho riuscita a usare da sola. Figuratevi un bambino di 2 anni, lo sviluppo cognitivo è quasi lo stesso, tra 80 e 2 siamo più o meno lì, dice la saggezza veneta. Ecco, potrebbe arrivare a capire come usarlo, e non sappiamo ancora qual è l'effetto che ha sullo sviluppo della sua mente, delle sue facoltà percettive e cognitive, quanto le riscrive, perché la verità, e Zuboff lo dice, non è l'unica, ma di fatto questi strumenti, come tutti gli strumenti tecnologici, riprogettano la nostra mente, riprogettano il nostro modo di concepire lo spazio, il nostro senso del tempo. E l'evoluzione è stata così rapida che non abbiamo avuto ancora il tempo di capire veramente come funzionano e renderci conto dei rischi. Cioè, paradossalmente, una cosa veloce, estremamente dannosa come la bomba atomica, in realtà abbiamo avuto una latenza molto più grande per capire, meglio l'energia nucleare, per capire quali erano gli aspetti positivi e quali erano gli aspetti tremendamente negativi di quella tecnologia. Con le tecnologie digitali questo tempo, questa latenza ancora non ce l'abbiamo avuta, è molto difficile averla, tra le altre cose. Mi ha convinto lei. Allora, c'è mia figlia di là che si guarda sul telefonino un film, penso, su Netflix, ha 10 anni, è un suo diritto, insomma. Ogni tanto lo pretende, bisogna, anche perché mi deve sopportare mentre sto a discutere di queste cose. Allora, se l'attenzione la spostassimo dalle piattaforme proprietarie verso un'esperienza digitale aperta, open source, free software, una pedagogia hacker, ad esempio, varrebbe la pena starci insieme ai nostri figli, che so, 10 ore al giorno su internet, sulle piattaforme? La domanda è un po' questa. Ma magari. Io nella perché volevo. Nella bibliografia che ho nella slide con la bibliografia alla fine, si evidenziava che poi tecnologia c'era il libro di Polida, questa collezione di ricerca a Milano, Etica Hacker e Anarcocapitalismo Scritto, e c'è un altro che si chiama Tecnologia del Dominio, Lessico Minimo per l'autodifesa digitale, 2 ottimi. No, magari, sì, io sono d'accordo, fondi davvero una porta, perché io vorrei che mia figlia avesse, per imparare a leggere, per imparare anche a programmare, francamente per un male investimento nel suo futuro da papà, impara l'arte da parte, la logica è davvero un po' quella, e farlo con strumenti sicuramente aperti. Ma non so, 10 ore, 20 ore, programma, sbaglia, rifai, ricomincia, poi vai anche sulle piattaforme proprietarie, papà te le metto io vicino a te, papà te le fa vedere, ti fa vedere come funziona, come è stato disegnato, come, perché c'è questa funzione qua, perché c'è questa icona qua, No, no, no, no, no, no. Il problema è che bisognerebbe insegnare prima gli insegnanti. Il punto chiave, secondo me, in questo è proprio la parola pedagogia, cioè l'insegnamento, soprattutto la, quella caratteristica abilitante che ha l'insegnamento, cioè di permetterti di fare le cose. Quello che era veramente affascinante ed è ancora veramente affascinante delle tecnologie digitali, ma quello che ha fatto innamorare tantissime persone di internet è che si potevano fare le cose, è che tu ti mettevi, avevi uno strumento e cominciavi a fare le cose, che fosse scrivere, che fosse registrare un programma radio, fare un video, diventava tanto facile fare le cose. Poi è diventato così, forse è diventato troppo facile, cioè si è persa anche, appunto, io parlo sempre di frizione, parlo sempre di latenza, parlo sempre del lavoro che fa il tempo che ti serve per imparare, appunto, ad avere attenzione, che ti serve per imparare a fare le cose sbagliando, riprovando e cercando di migliorare. Sì, credo proprio che il cuore della preoccupazione, della domanda sia proprio questo, cioè la pedagogia, la capacità di insegnare, anche di riconoscere, come posso dire, i pericoli, i rischi e trasmetterli, perché questo è il punto. Noi non possiamo lasciare sole le persone, come non possiamo lasciare soli i nostri genitori. Cioè io, da quando mia mamma si è fatta Facebook, io temo che un giorno posterà una bufala imbarazzante, cioè qualcosa che direi: mamma, ma che cazzo fai? Cioè, ma svegliati, sei una persona intelligente, non lo puoi fare. Cioè già l'altro giorno ho subodorato una cosa, ci si parlava di coronavirus, di quarantene, e ho sentito, dice, hanno messo la quarantena di fianco a casa nostra, non ho avuto il coraggio di controllare se fosse vero o se fosse una minchiata, perché se fosse stata una minchiata avrei dovuto veramente, tipo, so, riprendere mia mamma, e non ne avevo nessuna voglia. Però sì, il punto penso proprio che sia quello. Tutto ciò che io stavo guardando Netflix, cioè, un capitolo del libro si apre con in esegesi la citazione, sono due righe, una citazione del CEO, dell'amministratore delegato di Netflix, che dice: i nostri concorrenti, noi siamo in competizione con il sonno. Esatto. Dice esattamente non questo, sono la Sony o la Microsoft. Ce l'abbiamo nella selezione, se non sbaglio, non me lo ricordo. Infatti. Tua figlia è venuta a guardare, capito, stavi parlando posso di lei. Posso chiedere, fare io una domanda? È stato scorrevole, è stato pesante, è stato noioso, avresti cambiato qualcosa? Parate, mi sarebbe molto utile avere anche un riscontro, un'esperienza di scontro della corrente d'aria. Dovrei aggiungerlo. Sì. Siamo i nostri stessi schiavisti. Quello è il paradosso. Grazie. Una piccola suggestione, due parole, grazie per questa serata bella, perché è una riflessione importantissima, ragazzi mi hanno coinvolto e io più che magari parlare ho deciso di creare un'opera che la troverete fuori, non abbiamo avuto modo di proiettarla, non ce l'abbiamo, però poi uscendo è qua dietro, quindi si può vedere proprio l'originale, la sensazione. emozione che dovevo evocare era appunto quella di dire ok, cioè, stiamo ragionando tutti, non sappiamo bene quello che accade usando sempre i social, stando lì, e dobbiamo riprenderci la possibilità di decidere, di vedere, di capire, di non essere governati ma di governare. Quindi. Però allo stesso tempo il danno forse grande che potranno subire le nuove generazioni non sarà solo quello di appunto subire una trasformazione a livello neuronale, a livello di percezione, di attenzione, ma anche di perdere tutto quello che stava attorno, che è parte della nostra vita, della nostra società. Questa opera che poi vedete è venuta anche da delle piccole suggestioni appunto legate alla mia infanzia, perché anch'io ho una bimba piccola, quindi siamo un po' in quella fase in cui ci ripensiamo tutto quel mondo della nostra infanzia, no? Che era l'idea. Io ho fatto la prima elementare nell'89, quindi prima e seconda elementare avevo sentito questa storia che un giorno sarebbe potuto telefonare guardandosi con la TV, no? Quindi questa cosa mi faceva viaggiare con la fantasia, l'idea di... Io la prima cosa che ho pensato la mattina quando dovevo andare a scuola ed era freddo, dovevo uscire dal letto, era l'idea di una scuola dove io non dovevo andare a scuola. E potevo vederla allo schermo, una cosa terribile. E poi invece lavorando con i bambini, con i laboratori, dico sempre questa cosa qui del fatto che accennava Giulia, che appunto adesso si potrebbe fare questa cosa di non andare più a scuola e averci una scuola digitale che ti viene offerta lì. Ma se ancora le scuole ci sono, è perché dobbiamo imparare anche qualcos'altro che noi sappiamo che è importante. Vedremo se poi rimarrà importante nella storia, che è tutto un qualcosa di difficilmente spiegabile, che sono le relazioni, l'umanità, il piacere, il conoscersi, l'empatia. E quindi questa opera di cui c'è uno smarco, come vedrete, una riduzione della complessità della realtà che ci circonda, e un po' viene da questo ricordo, questa idea, questa sensazione. Poi, così, anche per concludere, mi piaceva pensare, invece, ultimamente mi sono rivisto con un po' di amici del liceo, di pensare a quegli anni, e ci siamo resi conto di quanto ci annoiavamo in qualche modo, di quanto era positiva quella noia, e di quante cose sono nate nei nostri pomeriggi dal non avere relazioni, punti di riferimento altri rispetto a quelli umani. Quindi andarsi a cercare con dei viaggi, con dei giochi, con delle fughe, con degli autobus, con delle coincidenze che non sapevamo se c'erano, una serie di situazioni che a me personalmente hanno dato una grande ricchezza umana e una bellezza di vita. Poi vedremo un po' cosa succederà, intanto ho cercato di dare uno spunto. Le immagini sono dei punti di domanda, degli strumenti per riflettere tutto qua, non ho anch'io nessun tipo di risposta. Però ci tengo a ringraziarvi perché è stato veramente stimolante poter aprire una porta su qualcosa che invece è sempre più automatico. Le cose automatiche sono le meno piacevoli, quindi di automatizzarci rispetto a questo è sicuramente un processo importante. Grazie mille. Va bene, grazie per averci prestato la vostra attenzione. Io vi ringrazio davvero tanto di aver reso questa prima serata così stimolante. Domani sera ci rivediamo sempre alle 9 con Federico Neirotti, che ci racconterà come ordinare le nostre città su Amazon, e sarà così un talk, sarà una narrativa fantascienza ma purtroppo anche realtà. Nel frattempo, se volete dare un'occhiata ai libri, ce ne sono tanti, se volete qualche consiglio ce lo potete chiedere volentieri, grazie ancora.